troppo d'orgoglio, troppa crudeltà, ma un nome in cielo ancor per castigarla. La cura lui ne lascia e tu vi dirai, mio giusto sia il comando. Egli è di padre e di re, e ciò ti basti. No, non regnerà lui, che sol per colpa te figlio con mio danno e onta mia, che se d'un vile amore soffri l'inferno, il gioco io scuoterò di te.